Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Quello di poter controllare col pensiero macchine, robot, avatar, insomma chi più ne ha più ne metta, è un filone molto presente nella fantascienza, ma per alcune persone è anche l'unica speranza di poter tornare a interagire con il mondo. Patologie come la SLA, come la sclerosi multipla, la distrofia muscolare ed altre infatti possono rendere incapace una persona anche solo di muovere gli occhi o soffiare in una cannuccia, che sono le tecniche utilizzate convenzionalmente. A questo punto l'unica possibilità è intercettare segnali prodotti direttamente dal cervello per avere un qualche tipo di interazione. E c'è una startup, si chiama Liquid Web, che ha messo a punto Brain Control, un dispositivo che appunto ha questo scopo. Ne parliamo con l'amministratore delegato Pasquale Fedele. Buonasera Fedele. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, intanto ci descriva brevemente da che elementi è composto questo apparato Brain Control e come funziona in linea di massima. Allora, si compone di un caschetto con dei sensori elettroencefalografici che meno male si conoscono, utilizzati in ambito diagnostico, che noi utilizziamo per andare a intercettare l'attività elettrica sulla corteccia cerebrale ed inviarla in modalità wireless, senza fili, ad un tablet che elabora questi segnali e riesce, grazie al software che abbiamo sviluppato, a distinguere dei pensieri legati al movimento. Sono gli stessi pensieri all'incirca che utilizziamo quando pensiamo di muovere una mano in avanti, indietro, destra, sinistra, alto, basso. Sono proprio questi pensieri e movimenti che noi riusciamo di base, a discriminare. Sì. Esatto. E tramite questi in pratica è possibile, come una sorta di joystick mentale, controllare un qualsiasi dispositivo. Questo è il principio di base. Ecco, nello specifico su questo tablet per esempio possono scorrere ci sono delle frasi prescritte, preindividuate. Uno può accendere una di queste frasi per esempio, no? Con questa esatto. Vostra... Il primo obiettivo che ci siamo posti dell'attuale versione di Brain Control è un comunicatore che è rivolto a persone con gravissime disabilità, non in grado ad esempio di utilizzare sistemi come i puntatori oculari che prevedono l'utilizzo del movimento della pupilla, quindi persone cosiddette in uno stato di locked-in, completamente incapaci di interagire, ai quali noi diamo questa possibilità di utilizzare questi pensieri per interagire con questi frasari, quindi queste griglie con delle parole, delle frasi che possono andare a selezionare e tramite il tablet vengono convertite in voce, in suono, certo, che i vicini, i familiari, i medici possono ascoltare e quindi permettono di interagire ai pazienti. Ecco, tutti questi apparati che utilizzano segnali come quelli cerebrali hanno bisogno di una fase di addestramento, perché questi segnali sono poi diversi da persona a persona. Questa fase serve a voi proprio a identificare questo segnale su cui poi voi basate il vostro lavoro. C'è una fase, dicevamo, di addestramento che è particolarmente delicata, visto che questi soggetti non interagiscono in nessun modo sostanzialmente. Esatto, un training in media dura circa 40 minuti che servono appunto per calibrare l'algoritmo sulla singola persona. Noi che attualmente stiamo lavorando con i pazienti in fase locked-in incontriamo delle difficoltà legate proprio allo stato di questi pazienti che a priori, prima che noi possiamo effettuare il training, spesso non sono in grado di dare dei feedback che ci consentono di capire se il paziente è cognitivamente abile o no e quindi se sarà in grado di portare a termine il training. Addirittura voi non riuscite a capire, quando andate a fare questo addestramento, se la persona è sveglia o sta dormendo, no? Esatto, oppure magari se ha un prurito, se ha un mal di gamba, un mal di denti che lo distrarranno dal training stesso. Quindi quello che facciamo noi sostanzialmente è ripetere queste sessioni di training più volte in modo da aumentare le possibilità di trovare il giorno buono nel caso fossimo sfortunati la prima volta. Passi successivi a questo punto di questo progetto. Intanto state collaborando ad un progetto nel quale si cerca di restituire virtualmente, diciamo così, la possibilità a queste persone di muoversi nello spazio. Esatto, abbiamo da poco completato un prototipo di una sorta di avatar costituito da un robot umanoide che può andare in giro per casa come una sorta di alter ego del paziente stesso e quindi consentire alla persona di interagire con i propri familiari che si trovano magari in un'altra stanza oppure andare a osservare il tramonto fuori dalla finestra grazie appunto alle telecamere montate sul robot che fanno da alter ego del paziente. Ecco, con chi state sviluppando questo progetto? Allora, questo è un progetto che è stato cofinanziato dalla regione toscana in una partnership in cui c'è dell'Università di Siena, un'azienda specializzata su robot umanoidi, si chiama Humanot, e poi altre due aziende, Micromech e Massimi Sistemi, che fanno parte del partenariato. C'è ancora un ulteriore orizzonte verso il quale vi state muovendo, no? Che in qualche modo c'entra, sì, con questo robot. Noi ovviamente stiamo andando avanti, abbiamo già dei prototipi su delle funzionalità di comunicazione avanzata, su controllo domotico, carrozzina elettrica, ma la cosa più affascinante, più ambiziosa è quello di controllare degli esoscheletri, quindi una forma di robot che potrebbe consentire a questi pazienti di riacquisire dei movimenti e quindi ridargli un'autonomia. Va bene, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Pasquale Fedele, appuntamento a lunedì. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.